Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è una nuova settimana di Eclettica, trasmissione condotta da Giulio Caperdoni e che vede al suo interno, oltre alla musica che caratterizza da 13 stagioni questa trasmissione, anche gli incipit letterari e gli spezzoni cinematografici. I due indirizzi fondamentali sono giulio@radiorockfm.com, da utilizzare nel caso ci siano concorsi, oppure per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, che vi permette di ricevere durante il weekend direttamente nella vostra casella di posta le playlist di questa trasmissione. L'altro indirizzo è assolutamente autoesplicativo e fa myspace.com/eclettica. Ragazzi giocano a pallacanestro intorno a un palo del telefono, sul quale è inchiodata la tavoletta della reticella. Gambe. Grida. Il raschiare e lo schioccare dei chez sui ciottoli sparsi del viale sembra catapultare alte le voci nell'umida aria di marzo azzurra sopra i fili. Coniglio Angstrom, facendosi avanti nel viale con il vestito di lavoro, si ferma e osserva, benché abbia 26 anni e sia alto 1,90 m. Così alto sembra un coniglio improbabile, ma la larghezza del viso bianco, il pallore delle iridi celesti e un tremito nervoso sotto il naso corto mentre si ficca in bocca la sigaretta spiegano in parte il soprannome appioppatogli quando era ragazzo anche lui. Rimane lì a pensare: i ragazzi continuano a venire al mondo, continuano ad assediarti. Questo era l'incipit di Corri, coniglio, di John Updike. You broke my heart. every surface pretty is hiding something ugly in the service of this love. And I gave no warning to my serpentine passion. All the coil began to unwind, the skin to shed, the skin to shed. Left in my silhouette, see, man is a snake. And I call the witness into my descent to madness. I became what I became just for you, or just beneath. I love you. I love you. I have hurt, I have harmed, I have murdered in the dark, just to be so much closer to you, my. Siamo andati a riprendere anche il vecchio album solista, beh, vecchio, ha solo qualche mese, di Imad Vasif, che ben conoscete, di cui molti fra voi me l'avete dichiarato senza pudori, vi siete innamorati appunto di quel disco. Ancora probabilmente non vi avevo fatto ascoltare Coil, poi l'altro giorno l'ho ascoltata per puro caso e ho detto, ma sì dai, rimettiamolo nel borsone nero e riportiamolo alle orecchie degli ascoltatori di Eclettica. Invece trasmissione che si è aperta con un gruppo californiano che penso sentiremo spesso da queste parti. Sicuramente gli darò visibilità anche come pillola durante il giorno, in modo di far capire a chi Eclettica non ascolta quali sono le perle che ogni tanto andiamo a scoprire. Un EP autoprodotto, Lavender Diamond è il nome della band che ha aperto Eclettica questa settimana, che troverete spesso all'interno delle playlist. Proseguiamo ora con una band che invece ci stiamo ascoltando ormai da parecchio tempo, sono i giapponesi Ghost con il loro In Stormy Nights, uscito per la Drag City, dal quale andiamo sempre ad ascoltarci questo brano, Caledonia, ascolto che ritorna anche quest'oggi, ma forse fino ad ora non mi sono mai ricordato di dirvi che questo non è nient'altro che la cover di un brano che risale al 1969, da un album intitolato Orgasm, per la band statunitense dei Cro-Magnon. I Caledonia, no, i Ghost rifanno Caledonia in questo modo, ascoltatevela. settimana dopo aver fatto l'amore. Non lo so. Non si sa, in queste cose non si sa mai. Lo so, dicendo non lo so, un modo di dire. Io non lo so. Io non lo so, però lo so, non è che non lo so. E poi, ho finito di fare l'amore. Non lo so, vedi che non lo sa. Non lo so, mi dà fastidio, cioè voglio dire, non lo so per dire che lo so. Allora dici non lo so per dire non lo so. Tu quando dici, non lo so, mi piacerebbe andare al mare, ma lo sai che ti piacerebbe andare al mare, non è che non lo sai. Vi ricordate di All Night Disco Party, un vecchio 7 pollici, direi almeno 2 anni? Forse 2, sì, quando passava tanto da queste parti. Sto parlando dei Breaks, sorta di supergruppo che ora è ritornato da Nashville, nella natia in Inghilterra, dopo aver registrato un disco di quasi 29 minuti di country punk, loro lo definiscono in questo modo, dal quale ci siamo ascoltati il pezzo dal titolo Cease and Desist, ed eclettica che prosegue con la svolta pop degli Anonimo FTP, che per il Re non si diverte sono usciti con un album dal titolo Lo sguardo al cielo, dal quale ci ascoltiamo il brano omonimo. Sereno, se non c'è, non c'è.

una seconda parte della prima parte di Eclettica di questa settimana, completamente italiana, perlomeno nell'idioma, perché se è vero che sono lombardi gli Anonimo FTP ascoltati prima, ed è vero che sono fiorentini Muriel appena sentiti con la loro Stagioni, è anche vero che l'artista che chiude questa prima parte di Eclettica è ticinese, quindi a tutti gli effetti di passaporto svizzero. Lui si chiama Jonathan e per la Eclectic Circus è uscito il suo album dal quale noi estraiamo Niente di giovane dietro una droga. Non c'è niente di giovane dietro una droga, proprio niente di giovane dietro una droga. Scrupoli dietro una droga, consigli d'amministrazione dietro una droga, ma proprio niente di giovane, niente di giovane, divento doppio da ridere quando canticchi di legalizzare e non lo vedi che di fatto è già tutto legale. Non lo vedi che di fatto è già tutto legale. Non c'è niente di giovane dietro una droga. Ci sono imperi e nazioni dietro una droga. Nessuna libertà dietro una droga. Il problemino è che la tua gioventù non la stai bruciando tu. Divento doppio da ridere quando ti illudi di trasgredire e non ti accorgi che di fatto è già tutto normale. Non ti accorgi che di fatto è già tutto normale. Non ti accorgi che di fatto è già tutto normale. Non ti accorgi che di fatto è già tutto normale. Distribuita molto meglio dei dischi. Si può scopare alla grande anche senza una droga. Si può suonare da Dio anche senza una droga. E si può fare la pace anche senza una droga. E si può essere un'alba anche senza una droga. Eclettica. Fine della prima parte.